Allora proporrei di sentire una canta in questa ragione adesso non leggerò la quinta parte concernente un confronto della secolarizzazione in Germania e in Italia, ma solo gli altri parti sulla germanica. Allora, problemi storici sociali della secolarizzazione in Germania, e questa è una documentazione tedesca su certi dati in complesso, bisogna capire, tradurre insomma, ma più tardi, pomeriggio. Bene, in Germania si dice secolarizzazione, in Italia e in Francia si parla dell'evoluzione della proprietà fondiaria durante la rivoluzione. È chiaro che questi due modi di descrizione riflettono due aspetti assai diversi della ricerca. Secolarizzazione è anzitutto un termine del diritto ecclesiastico e indice l'espropriazione di beni ecclesiastici da parte dello Stato. Così, anche per me, per voi. Sì. Uno, il microfono. O l'ho leggerato. Sì, grazie. Grazie. Così la prospettiva va segnalata. La lotta secolare fra Chiesa e Stato, nella quale gli eventi durante la Rivoluzione francese non sono che una fase singolare bensì. In Germania la Chiesa cattolica, prima del 1803, era una forza eccezionale. Aveva più di 3 milioni sudditi, cioè il 13% di tutti i tedeschi, ma più di 25% se si eccettuano la Prussia e l'Austria, dove non esistevano più stati ecclesiastici, tranne i due piccoli principati vescovili di Bressanone e Trento. Sì. La sua quota parte del reddito feudale era ancora molto più elevata. Di pari passo, il protestantesimo si opponeva alla piena sovranità dei principi tedeschi, malgrado la sua relativa povertà e subordinazione politica. Inoltre, tutte e due chiese erano le uniche istituzioni munite di una gerarchia da cima a fondo e che erano presenti in ogni borgo e villaggio. Se lo Stato moderno voleva farsi valere pienamente, la messa da parte del potere ecclesiastico, dal punto di vista economico e politico, sembrava indispensabile. Ben diversa si presenta, a quanto mi pare, la situazione in Italia. Ivi la Chiesa aveva già per tutta la sua preeminenza politica, naturalmente eccettuato lo Stato ecclesiastico. Per mezzo di riforme, Maria Teresa e Giuseppe II nella Lombardia, Pietro Leopoldo nella Toscana, i ministri Dutilleux a Parma e Tannucci a Napoli avevano vincolato l'onnipotenza del clero e lo integrato nel sistema statale. Nella Repubblica di Venezia la supremazia dello Stato godeva già di una lunga tradizione. Tuttavia anche qui, dal punto di vista economico, la Chiesa era sempre un fattore di grandissima importanza e come tale essa bloccava le riforme agrarie. Alla fine del secolo, nella lotta tra Stato e Chiesa in Italia, l'eccedenza di problemi economici sembra chiara. Questo giudizio, o piuttosto questa contrapposizione, non è pronunciato a posteriori, poiché già i contemporanei così pensavano. In Germania, l'eliminazione dei stati ecclesiastici fu discussa a partire dal 1785 in una prospettiva meramente politica, e perfino i pochi giacobini dei regioni meridionali, con i loro intenzioni sociali, aspettavano soprattutto una politica rivoluzione dall'esecuzione dei secolarizzazione, è una citazione del tempo. Al contrario, nella discussione degli intellettuali italiani dopo il 1760 sembrano aver prevalsi i temi economici e prima di ogni altro la questione agraria. Mi pare che la ragione di questa differenza sta nel fatto che, malgrado la rifeudalizzazione nel Seicento in Italia, l'economia e la società presentavano tratti molto più moderni della Germania, che era intorno al 1800 un paese di intatta struttura feudale. Dunque, l'abolizione del sistema feudale tedesco era, per l'Ottocento, di assoluta necessità. Fu eseguita per lo più nel corso di un quarantennio fra il 1806 e il 48. Una importante conseguenza di quella differenza era la relativa scarsità di transizioni fondiarie prima della secolarizzazione. Anche durante l'età napoleonica erano molto meno numerose dell'Italia, dove esisteva da lunghi tempi un vero mercato terriero, malgrado l'estensione della manomorta. Questo mercato si allargava ancora dopo gli inizi del capitalismo agrario, età causata molto prima della industrializzazione, l'erosione del ceto agricolo e la formazione di un vastissimo proletariato rurale. La arretratezza della Germania va anche segnalata dal fatto che la posizione autonoma del clero e della nobiltà ha impedito totalmente l'accatastazione. Mentre nel Settecento italiano, praticamente dovunque, la proprietà fondiaria fu registrata in catasti bensì difettosi, ma utili per l'inserire nello stato di questi corpi intermedi. Quel distacco nella materia ricavata dalle fonti statistiche e storiografiche ha differenziato poi la direzione della ricerca in ambedue i paesi. In Germania, un elenco della ripartizione fondiaria prima della rivoluzione è tuttora impossibile, ma anche di minore interesse, perché il sistema feudale ha conservato lo stato tradizionale in modo determinante. Gli studiosi italiani invece ci hanno dato, specialmente dalla fine dell'ultima guerra, tutta una serie di indagini del genere e quanto anche manca tuttora una bilancia finale. Abbiamo pure conosciuto abbastanza bene la dinamica dell'evoluzione proprietaria nel quadro locale o regionale. Va aggiunto un secondo problema. Per lo stato della ricerca in Germania era significativo il fatto che, per ben 100 anni fino a questi giorni, la storia della secolarizzazione è stata trattata prevalentemente da studiosi di problemi della Chiesa Cattolica, il cui principale interesse era quello rivolto all'ingiustizia subita. Gli studiosi di storia profana si sono limitati quasi senza eccezione alla storia del luogo, alla storia della patria. Ambedue i generi letterari si accontentano, nella maggior parte dei casi, di notizie sull'annessione, secolarizzazione e soppressione di istituzioni spirituali. Il cambio di proprietà, che a noi particolarmente interessa, non viene trattato quasi mai, tranne che la presa incontrollata di sospetti globali. Solo più recentemente si era giunto in alcune tesi di laurea ad una certa esposizione metodica, che per la prima volta ha portato alla luce una buona quantità di materiale calcolabile. Finora però si è dedicati esclusivamente alle regioni della riva sinistra del Reno e alla Baviera, per cui pure la seconda esposizione mette l'accento soprattutto su queste due regioni. Poi, nel corso della parte seconda, nel corso della secolarizzazione. La secolarizzazione degli anni 1802-3 normalmente viene messa in una lunga tradizione storica tedesca che avrebbe iniziato con l'epoca carolingia e continuato con la riforma. Quale fatto immediatamente precedente, importante perché ha dato l'ultimo impulso, sarebbe da considerarsi la soppressione di ben 700 monasteri per opera di Giuseppe II nell'anno 1782 e la confisca dei beni ecclesiastici durante la Rivoluzione francese. Per quanto questa interpretazione, da molti punti di vista, possa essere giusta, essa non si accorge quasi mai del mutamento dello scopo della secolarizzazione e, collegato a questo fatto, del concetto di beni ecclesiastici, anche se allora la trasformazione del sistema sociale era collegata proprio a questi due processi. Mentre le stesse soppressioni di Giuseppe II costituivano ancora un provvedimento della riforma della Chiesa, per cui la proprietà confiscata dei monasteri non veniva quasi mai ceduta, anzi rimase legata a uno scopo specifico. La nazionalizzazione dei beni ecclesiastici durante la Rivoluzione francese avveniva per la prima volta per motivi utilitaristici di carattere puramente profano. Incremento dell'agricoltura mediante l'aumento delle proprietà fondiarie, risanamento dell'enorme deficit statale e la soppressione di uno Stato nello Stato stesso erano i motivi determinanti. Essi esercitavano un'influenza pure sugli avvenimenti in Germania, dove però, in confronto alla Francia, dove in un primo tempo veniva oppressa la totalità degli enti ecclesiastici, venivano limitati dal concetto, diciamo, territoriale illuminato dei beni ecclesiastici. Secondo questo concetto specificamente tedesco si riconosceva solo la destinazione funzionale, nei termini di un giurista del tempo, solo cosa richiede il culto, e si intendeva con ciò solamente i beni ecclesiastici parrocchiali, i fondi scolastici e le opere pie. Il resto, all'incirca il 90% del patrimonio immobiliare ecclesiastico, veniva affittato al potere statale. Questo potere, nelle regioni tedesche lungo la riva sinistra e destra del Reno, era dovuta ad una base giuridica diversa. La confisca dei beni ecclesiastici delle regioni sulla riva sinistra del Reno risale alla pace di Lunéville del 1801 e al concordato con la Repubblica francese del 1801 anche questo, come anche alla decisione consolare del 9 giugno 1802 sulla soppressione e la confisca dei beni spirituali che valeva per i quattro dipartimenti del Reno. Però i beni parrocchiali ancora esistenti venivano nuovamente separati e restituiti in conformità al decreto del 26 agosto 1803. Nonostante una vivace protesta, il 9 novembre 1804, i beni della Chiesa protestante, notevoli solo nell'ex principato di Fellens, alla Mosella, e nel dipartimento di Montenay, il Palatinato d'oggi, per quanto appartenessero all'amministrazione ecclesiastica di Zweibrücken e Heidelberg, vennero ugualmente confiscati per l'intervento personale di Napoleone. Nelle regioni sulla riva destra del Reno, il Reichsdeputationshauptschuss, questo è un termine speciale, la dieta dell'impero finiva di funzionare praticamente con questa nel 1803. Questa Reichsdeputationshauptschuss è l'ultima, come dire, l'ultima convocazione straordinaria nel 1803. Questo Reichsdeputationshauptschluss introduceva le condizioni che eliminavano la totalità dei enti ecclesiastici sovrani come beni di indennizzo, secolarizzazione della sovranità e del patrimonio, tranne tre istituzioni: arcicancelliere elettorale, che era l'ex arcivescovo di Magonza e era il futuro e aveva la futura dignità di principe vescovo di Ratisbona, poi l'ordine teutonico e infine l'ordine dei cavalieri di Malta, e che oltre a ciò nel paragrafo 35 faceva dei conventi, dei monasteri e delle abbazie di tutte le tre confessioni soggette a un principe dell'impero un bene disponibile. Era questa solamente una autorizzazione alla secolarizzazione patrimoniale. Il volume di massa di indennizzo e di disposizione era enorme. Attraverso il decreto del 1803 venivano soppressi 25 principati vescovili, 44 abbazie dell'impero e 287 abbazie, monasteri e conventi soggetti ad un principe, nonché di 41 città libere. L'immediato territorio spirituale misurava 1295 miglia quadrati con 2,36 milioni di abitanti e 12,72 milioni fiorini entrate annuali. Gli istituti ecclesiastici mediati avevano delle entrate annuali di 2,87 milioni fiorini, cosa che secondo il calcolo di interesse di allora corrisponderebbe a un patrimonio di circa 312 milioni fiorini. I territori ex ecclesiastici sulla riva sinistra del Reno, annessi fin dal 1801 alla Francia, includevano 424 miglia quadrati con 800.000 abitanti e 5,43 milioni fiorini entrate annuali, corrispondente a un patrimonio capitale di 1.808 milioni fiorini. A ciò si aggiungevano 356 miglia al quadrato di regioni secolari più 1 milione di abitanti. Per lo più gli studiosi tedeschi hanno ignorato che c'è una grande differenza fra espropriazione e vendita di beni ecclesiastici. Infatti, quel che è stato espropriato non veniva messo all'asta totalmente, e ciò per due ragioni. In primo luogo, c'era da rispettare la concezione di proprietà da allora. Secondo il jus feudale, i di cui norme valevano per qualunque specie di proprietà fondiaria, eccettuato quella poco data affitto, il diritto era diviso in dominio diretto e dominio utile. Nella Germania occidentale e meridionale, clero e nobiltà, alla fine del Settecento, tenevano solamente il dominio diretto, con qualche eccezione, bensì, mentre i contadini non avevano in affitto i poderi, ma li possedevano quale dominio utile. Per conseguenza, quando i principi tedeschi mettevano i loro mani sulla Chiesa, potevano impadronirsi solo del dominio diretto, poiché lo sviluppo del concetto di possesso in questi tempi e regioni era giunta praticamente all'unità del diritto di usufrutto e di disposizione. Malgrado la secolarizzazione, i contadini conservavano i loro poderi, ma pagavano i tributi feudali invece al clero, da allora in poi al nuovo signore. In secondo luogo, il regime agrario e, soprattutto nell'esempio di Baviera, gli scopi di politica sociale limitavano le offerte d'acquisto. Come ho detto poco fa, in Germania occidentale e meridionale, la nobiltà e i corporazioni ecclesiastici vivevano soprattutto dalle loro entrate feudali. Le proprietà gestite direttamente non avevano più grande importanza. Dunque, dopo il 1803, c'era molto da secolarizzare ma poco da vendere. Però bisogna tener conto delle differenze a seconda delle regioni. Nella Renania, con la sua struttura relativamente moderna, le tenute affitto raggiungevano talvolta il 30% della superficie. In conseguenza, molti terreni venivano messi all'asta, il 7% fino al 15% a seconda della regione. In tutto, 1.134.000 ettari all'incirca di dominio utile sono stati espropriati, ma solo 92.000 ettari ne furono venduti. Si parla sempre di terreni arativi, prati e vigneti. A causa di un sistema agrario più arretrato, poiché meno monetizzato, le cose in Baviera erano un po' diverse. Oltre ad una proprietà terriera estesa legata al feudo, i monasteri avevano ancora una gestione privata relativamente forte che normalmente includeva una serie di aziende artigiane. Sembra però che la proprietà feudale, come anche la maggior parte del bosco, non sia stata colpita dalle vendite, poiché un mandato bavarese del 11 marzo 1803 per i commissari incaricati delle soppressioni intendeva come terreni secolarizzabili da inventarizzare e quindi da vendere solo l'autogestione dell'economia e dichiarava la totalità delle proprietà diretta Un altro patrimonio, e cioè soprattutto rendite ed entrate da titoli feudali. Se con ciò si tiene ancora conto del fatto che prima dell'affitto e dell'asta di queste proprietà si dovevano rimunerare le già incorporate parrocchie monasteriali e soddisfare gli ex lavoratori e professionisti dei monasteri, allora non ci si sbaglierebbe se si calcolasse la dimensione dei beni ecclesiastici venduti in Baviera, su neanche l'1% della superficie coltivata. Infatti furono messi all'asta solo 10.000 ettari circa. Tutto insieme, la concezione di proprietà e il sistema agrario permettevano un'applicazione variabile delle facoltà legali di 1802-3, a secondo le intenzioni dei governi. Uno sguardo generale ci mostra che si può parlare di una vera tipologia di modi di secolarizzazione in Germania. Prescindendo da quei casi dove gli stati non usarono l'autorizzazione offerta dalla Dieta di Ratisbona, ci si presenta il seguente spettro di procedimenti. In primo luogo, il modo tradizionale che è caratterizzato da una espropriazione legata puramente ad intenzioni di riforme ecclesiastiche, come nel caso di Giuseppe II, e questo nella pagina 2, i varianti tip 1, tip 2, tipo 3. Questo tipo realizzavano Brunswick, ma solo fino al 1814, ed Hannover. In secondo luogo, il modo di, diciamo, preferenza demaniale. In questo caso, le case e l'inventario normalmente furono venduti, mentre i titoli feudali e le tenute venivano incorporati nel demanio statale e dato in affitto. Tutto che cambiava era il ricevitore dei diritti, mentre il sistema di gestione restava immutato. Questo modello fu seguitato dalla città libera d'Augusta di Württemberg, Baden-Hohenzollern, Dalassia, Darmstadt, dal Regno di Westfalia, dal Granducato di Berg e dalla Prussia, tutti e tre fino al 1810, dal Brunswick a partire dal 1814 e con i principi di Thurn und Taxis e Fürstenberg. Probabilmente la maggior parte dei cosiddetti Standesherren, cioè i principi e conti sovrani fino al 1806 e poi assoggettati dai re di Baviera, Württemberg, eccetera. In terzo luogo, finalmente, il modo di, diciamo, preferenza fiscale. Qui gli stati ritenevano solamente i boschi e le entrate dai titoli feudali, mentre tutto il resto fu venduto a favore del fisco. È chiaro che, in quanto al nostro interesse per la transizione delle terre, quest'ultimo modello sarà il più rilevante. Si tratta della Baviera, insieme al Ducato di Berg, fino al 1806, e al Palatinato, dopo il 1816, nonché dell'Assia-Nassau, della Città Libera e poi del Granducato di Francoforte, della Renania e degli stati napoleonici di Westfalia e Berg e della Prussia, tutti e tre a partire dal 1810. La ristrutturazione, allora le vendite, insomma, la ristrutturazione del possesso e le conseguenze sociali però non sono semplicemente fattori della grandezza del terreno offerto, ma anche della politica di vendita. Anch'essa era sottomessa, a seconda del territorio, a delle disposizioni diverse. Alla presa di possesso dappertutto seguiva l'esatta inventarizzazione, l'espulsione degli oggetti di meno valore, lo sgombro degli oggetti d'arte e di scienza, l'asta dei beni mobili, la valutazione degli immobili. Mentre per quest'ultima, nelle regioni sulla riva sinistra del Reno, delle disposizioni molto dettagliate non permettevano alla discrezione delle commissioni molta libertà e stabilivano che il valore di stima della proprietà fondiaria doveva essere 10 volte l'affitto annuale, in Baviera le commissioni di soppressione impiegavano artigiani locali che, dopo la loro prestazione di giuramento, dovevano tassare gli immobili in questione. Solo nel caso di birrerie esistevano dei valori di stima indicativi orientati alla produzione annua. Per mantenere il controllo sulle aste, che avevano luogo in molte parti, sulla riva sinistra del Reno le aste si tenevano solo nella capitale del dipartimento, il governo del principe elettore di Baviera richiedeva che ogni contratto di compravendita doveva essergli presentato per l'approvazione. Questa procedura richiedeva molto tempo e qualche volta ne risultava che l'interessato nel frattempo cambiava opinione, per questo i commissari erano autorizzati ad affittare provvisoriamente. D'altra parte, il governo aveva così la possibilità, spesso sfruttata, di influire sui gruppi di acquirenti in questione. Sono state trasmesse parecchie disposizioni di dividere il terreno in parcelle più piccole, questo non solo per aumentare così le offerte, ma anche per aiutare un gran numero di famiglie più povere a crearsi una base di entrate agricole. Quest'ultimo esempio ci rivela una delle differenze fondamentali esistenti tra la politica di vendita dei beni francesi e bavaresi. Per il governo francese il motivo decisivo era l'attenuazione dei loro problemi finanziari e perciò essa ha sottoposto le vendite dei beni nazionali nei quattro dipartimenti renani, beni ecclesiastici, proprietà degli ex sovrani secolari e degli emigrati, come anche il possesso immobiliare delle corporazioni artigianali abolite, assai piccolo, a condizioni diverse di quelle molto favorevoli per i beni ecclesiastici all'interno della Francia. Una certa eccezione è costituita solo nel dipartimento di Montoner, dove un prefetto avveduto, Jean-Bon Saint-André, ha potuto imporre una ripartizione almeno per quei beni che dovevano essere venduti in conformità ad un mandato dai nobili tornati nel dipartimento, ma non si tratta di beni nazionali. Nella maggior parte dei casi, però, le proprietà cambiano possesso in toto, senza tener conto della loro dimensione, così che non avveniva un frazionamento del terreno. Anche i termini per i pagamenti erano più sfavorevoli di quelli di allora all'interno della Francia. Mentre in Francia il prezzo d'acquisto doveva essere pagato in 12 annualità, adesso se ne richiedevano 5, di cui una era pagabile entro 3 mesi, il resto con interesse del 5%. Come è già stato accennato, nell'antica Baviera, al sud della Donau, prima dell'inizio dell'asta, qui come là annunciate con iniziazioni e manifesti, le parrocchie monasteriali incorporati e i lavoratori dei monasteri dovevano essere provvisti gratuitamente di terreno. Questi ricevevano per famiglia al massimo 3 diciamo morgen in tedesco, iugeri o come si chiama in italiano? Moggi, va bene, 3 moggi, quasi un ettaro di terreno coltivato. Mattino. Quasi un ettaro di terreno coltivato, di preferenza per terreni incolti, per i quali dovevano pagare all'anno il 3% del valore di stima nel caso di terreno incolto però solo dopo 25 anni esenti da imposte. Poi il possedimento rimanente, se non si trattava di masi sperduti, veniva sezionato in unità più possibilmente piccole, prevalentemente tra mezzo mattino e 6 mattini. Le aziende di artigianato, le fornaci, le cave di pietra, le acque, i mulini e soprattutto le birrerie venivano però isolati e messi in vendita all'ingrosso insieme alle concessioni. L'obbligo della parcellazione risulta chiaramente dalle dure condizioni di pagamento. Il 50% del prezzo d'acquisto doveva essere pagato subito. L'altro 25% in 3 fino a 6 annualità, con supplemento del 4% di interesse. L'ultimo quarto rimaneva fermo come canone prediale eterno, diciamo, quindi corrispondeva ad una ipoteca irredimibile per cui nel caso di edifici si doveva pagare l'uno per mille di interesse, mentre nel caso di beni si doveva anche pagare una somma corrispondente in contanti, il di cui ammontare però era indicato in cereali per assicurare il valore. Nel quadro di questa ricerca, una questione particolarmente importante è naturalmente quella che riguarda i compratori. La letteratura più antica si accontentava dell'accusa globale che erano prevalentemente i protestanti o gli ebrei ad acquistare. Studi più recenti approfittano in misura sempre più crescente dei protocolli delle aste, conservate spesso completamente, che molte volte contengono indicazioni sulla professione, e così si arriva a delle affermazioni assai più vicine alla realtà. Tranne pochissime eccezioni, però, anche queste opere commettono l'errore di trarre delle conclusioni dalla semplice analisi dei protocolli delle aste per il cambiamento della struttura delle proprietà. Proprio nella Renania, però, dove i beni venivano venduti nella loro totalità, la vera ristrutturazione delle proprietà è avvenuta, come lo dimostra una tesi di laurea dell'Università di Trevide, solo in una seconda fase, quando i primi compratori rivendevano il loro terreno. Questo fenomeno può essere ricostruito solo attraverso un lavoro assai difficile, e cioè esaminando a fondo tutti gli atti notarili. Per le regioni sulla riva sinistra del Reno esistono per ora delle ricerche più o meno sicure solo per Aquisgrana, Krefeld, Kleve, Colonia, Bonn, Koblenz e il Dipartimento della Saar, diciamo Trevide, sempre con la rispettiva circoscrizione amministrativa. Invece per il Palatinato e l'Assia Renana esistono solo dei passi di citazione casuale. Nonostante le differenze nella loro struttura economica, il quadro è quasi dappertutto lo stesso. Nel distretto di Koblenz, più della metà dei compratori erano contadini, che però acquistavano solo quasi un terzo del terreno. La borghesia non era tanto numerosa, acquistava però più del 50% dei beni fondiari e praticamente tutti gli edifici. La partecipazione del clero era minima. Ma una ex abbadessa nobile però comprò attraverso un mediatore ebreo la tenuta autogestita del suo monastero di allora, che comprendeva 43 ettari. L'aristocrazia comprò solo in due casi. L'interesse degli artigiani era rivolto particolarmente ad edifici utilizzabili per attività artigianali e non tanto a proprietà fondiarie. I vignaioli si interessavano quasi esclusivamente di vigneti. I principali acquirenti di terreni ecclesiastiche di Colonia erano cittadini di Colonia e Aquisgrana, provvisti di forti capitali. Solo 50 di loro acquistavano quasi la metà di tutti i beni fondiari per quanto riguarda i prezzi. Altro gruppo importante di acquirenti era formato dagli ricchi affittuari, che compravano una gran massa di poderi, parcelle singole ed edifici. La partecipazione del clero è stata scarsa e solo in due casi è attestata con sicurezza la partecipazione dell'aristocrazia. Nelle altre regioni nominate le proporzioni sono simili. La precedente classificazione però non dà ancora un quadro esatto. Nella Renania, dietro ai contadini, si nascondevano soprattutto degli affittuari di ex proprietà ecclesiastiche, che ormai molte volte hanno acquistato il terreno da loro lavorato da molto tempo. In qualità di amministratori di aziende relativamente grandi, disponevano di capitali maggiori di coloro che fruivano delle enfiteusi che nella maggior parte dei casi lavoravano in povertà il loro piccolo terreno. La borghesia a quel tempo si era già da molto altamente differenziata. Rentieri, notai, commercianti e fabbricanti si presentano quali acquirenti esperti, cosa che i banchieri di Colonia lo facevano raramente, in quanto essi potevano arrivare a delle rendite più alte nella concessione di crediti del commercio e dell'artigianato e temevano un vincolo di capitali a lungo termine. La piccola borghesia, impiegati semplici, artigiani, mugnai, osti, partecipa sorprendentemente poco al giro degli affari e al prezzo d'acquisto. Nei dintorni di Bonn, colpito particolarmente forte dalla perdita del carattere residenziale della città, la partecipazione della piccola borghesia è ancora minore di quella del clero. Commercianti ebrei, che nell'era francese erano ammessi per la prima volta all'acquisto di fondi, ne approfittavano spesso nei primi tempi a Bonn e Colonia. Ecco perché dal 1806 in poi essi venivano discriminati dalle autorità. La situazione è simile nel dipartimento di Montoner, dove però sembra che sia mancata l'alta borghesia. Un problema particolare è rappresentato dai sensuali, dei quali si parla spesso nella letteratura con la nozione di speculatori. Una tale professione allora non esisteva ancora, ecco perché non appaiono come tali nei protocolli dell'asta. Però il sistema francese di vendita ha quasi stimolato la nascita di attività di mediatori e l'ha anche esplicitamente permessa. In questi casi, nei protocolli appare la giunta Bourcomont. Si potrebbe però anche sospettare delle intenzioni di rivendita se i notari e le società di vendite fondiarie, belghe o francesi soprattutto, o esclusivamente, o altre persone singole vengono nominati come acquirenti senza questa aggiunta. Nel distretto di Koblenz i mediatori effettuarono circa un ottavo delle vendite, a Colonia persino più della metà, per quanto riguarda i prezzi, però solo il 40%. I mediatori con un più forte giro d'affari venivano dalle regioni con industrie tessili tra Aquisgrana e Liegi. Sembra che per gli acquirenti l'interessamento di un mediatore valesse la pena, tanto più che di fronte alla forte concorrenza le provvigioni non potevano essere molto alte. Facendo bilancio di questa fase di vendita di beni nazionali, sorprende il fatto che la gente più modesta, che dal punto di vista quantitativo costituiva la maggioranza, rimaneva esclusa dalla ripartizione delle proprietà fondiarie e degli edifici, benché nella maggioranza vivessero di attività agricole. Le mancate parcellazioni e le condizioni di pagamento hanno impedito un'ulteriore partecipazione. Soprattutto nella regione del Basso Reno e nei dintorni delle città, il capitale commerciale, invece, ne ha approfittato in grande stile. I pochi dati biografici che per questo problema sono a nostra disposizione dimostrano che gli industriali dell'industria tessile della regione di Aquisgrana e di Krefeld, che potevano guardare indietro su una più lunga tradizione e più alta congiuntura fino al 1792 e tra gli anni 1804 e 1810, hanno vissuto una ripresa economica, hanno investito i loro soldi in residenze signorili e beni e hanno così continuato l'ondata di vendite fondiarie della fine del Settecento. In altre regioni, particolarmente a Colonia e Bonn, ma anche lungo le rive della Saar e della Mosella, dove il passaggio a imprese industriali più grandi avveniva solo nel periodo francese, l'industria tessile ed altri settori, come anche molte proprietà terriere, hanno anche acquistato all'ingrosso degli edifici di monasteri per usarli come luogo di produzione. La famiglia Stumm, in possesso di uno stabilimento metallurgico, comprava dalla chiesa alcune miniere più piccole nella Eifel e nel Hunsrück. La scarsa partecipazione dell'aristocrazia non è dovuta tanto alla sua emigrazione, bensì da una parte al fatto che era in grado di mantenere gran parte dei suoi beni d'affitto e beni gestiti direttamente, dall'altra parte però dal fatto, e questo sarà di maggiore importanza come motivo, che la perdita della sua posizione signorile l'ha colpita tanto più forte, in quanto l'amministrazione fideicommissaria di proprietà terriere nobili aveva impedito fin dall'inizio un'ulteriore liquidità. La riservatezza dell'arginato cittadina si spiega dalla coincidenza di due tendenze negative: l'emergere di capacità troppo grandi, che si poteva osservare da qualche tempo, si sovrapponeva a un improvviso regresso della richiesta a causa della scomparsa di committenti ecclesiastici, cosa che colpiva soprattutto una parte dell'arginato dei beni di consumo e dell'arginato edile. Di particolare interesse sarebbe il confronto degli avvenimenti durante la prima fase di vendite con quelli durante la seconda fase, poiché in questa seconda fase si è sicuramente effettuata un'ulteriore ristrutturazione della proprietà terriera. L'unica ricerca del genere, tranne la già menzionata tesi di laurea, sulla riva sinistra del Reno si occupa con Klingenmünster, un piccolo luogo nel Palatinato vicino alla città di Landau. La comparabilità però è limitata, poiché il sistema economico e sociale di questo comune era diverso a quello delle rive della Mosella, del Reno e della Ruhr, e anche per la sua temporanea appartenenza alla Francia. Così i beni venivano messi all'asta in numero relativamente maggiore, cioè anche i beni enfiteutici e parrocchiali, più presto, a sapere nel 1795-98, e più conveniente, pagabile in 12 annualità. Le poche famiglie del luogo, provviste di forti capitali, erano i primi ad approfittarne durante le aste a Landau e subito facevano misurare il terreno e ne rivendevano la maggior parte ai paesani più poveri. In una seconda ondata di aste, che oramai si tenevano a Strasburgo, erano i commercianti estranei, prevalentemente cittadini di Strasburgo, Mannheim, Heidelberg e Darmstadt, ad entrare in azione. Questa volta compravano anche impiegati francesi immigrati. Anche questo gruppo rivendeva o più presto o più tardo il suo possesso, così che fino al 1830 la maggior parte di questo terreno era ricaduto nelle mani dei contadini. Il catasto di 1842 dimostra l'enorme ristrutturazione del possesso. I centri dei beni signorili di una volta adesso formano il nucleo di possesso sparso, borghese, che però dal punto di vista dell'ordine di grandezza è piccolo. I notabili di un tempo, anzi i loro discendenti, vivono in parte ancora sul posto, sono però completamente impoveriti a causa della perdita dei loro privilegi, benché una delle famiglie abbia potuto acquistare una parte del suo potere di servizio. La figlia del già consigliere Aulico e esattore delle imposte e decimi, morta nel 1846, si è salvata lavando e stirando per i suoi ex coloni contadini. Se adesso ci rivolgiamo verso la Baviera, incontriamo un quadro completamente diverso, dovuto alla struttura sociale, al sistema agrario e agli intenti del governo. Per sei monasteri di prelati esistono delle ricerche dettagliate, i cui risultati sono così concordanti che possono essere generalizzati. Il terreno veniva offerto in tre ordini di grandezza: parcelle minime, beni agricoli e tenute grandi, situati prevalentemente in regioni isolate. Inoltre si vendevano edifici, aziende commerciali, concessioni. I servitori e braccianti dei monasteri, abbastanza numerosi, perdevano il loro lavoro a causa della secolarizzazione. Ecco perché gli ultimi venivano indennizzati con poco terreno di peggiore qualità. I primi ricevevano piccole pensioni con cui spesso compravano qualche parcella e officina in cui avevano fino ad allora lavorato insieme alla concessione. Così poteva succedere che la massa del possesso dei monasteri spezzettato passava ad una classe che era prevalentemente povera, spesso proletaria, dei diretti dintorni. I poderi autogestiti andavano solo raramente a contadini nel senso vero e proprio, che poi spesso avevano difficoltà a pagare. Venivano acquistati maggiormente da panettieri finanziariamente soliti o da osti o proprietari di una birreria della regione o da estranei spesso cittadini di Monaco. I primi, in particolare, approfittavano anche spesso di parcelle singole a causa di un arrotondamento fondiario. Nel caso di proprietà maggiori, che spesso venivano vendute insieme agli edifici, al bosco e ai diritti feudali, un'altra classe ancora di acquirenti entrava in discussione: impiegati statali benestanti, fabbricanti, birrai e fornai ricchi di Monaco, come anche aristocratici. Queste persone spesso avevano una solidità dubitosa. Il clero approfittò raramente. Le pensioni degli ex religiosi erano troppo scarsi per gli acquisti, mentre il clero secolare disponeva di mezzi sufficienti. L'ex clero dell'impero, nobile, evidentemente era escluso come acquirente a causa dell'indennizzo. Però nella primavera del 1803 il ex vescovo principe di Bamberg ha acquistato come uno dei primi acquirenti il potere di Eberhof per il valore di stima, poiché la nuova residenza a Bamberg non gli piaceva. Cercando di dare un'analisi di questi fenomeni molteplici, sorprende il fatto che i contadini non apparivano quasi mai quale acquirenti, sia perché il divieto di dividere le terre nel caso di eredità assicurava ad essa un'entrata sufficiente e perciò non dipendeva da acquisti di terreno supplementare, ossia perché l'economia poco monetizzata, che ancora prevaleva, rese troppo scarso il denaro contante necessario per acquisti supplementari. La maggioranza degli acquirenti consisteva in braccianti rurali ed artigiani, e questo per una semplice necessità di esistenza. Però il capitale per la fondazione di un potere sufficiente di solito non sarà bastato, perché il gran numero degli altri aspiranti faceva salire i prezzi. Prova per la posizione debole della borghesia e il fatto sorprendente in confronto alla Renania che la borghesia commerciale e libero professionista non appare quasi mai nei protocolli di vendita e che al suo posto ci sono panettieri, osti e birrai che nella Renania avevano solo un ruolo molto subordinato. Nel segno di povertà estesa o perlomeno di mancanza di denaro contante, quei commercianti che producevano per il fabbisogno giornaliero godevano di una posizione addirittura privilegiata. Quelli provenienti da Monaco acquistavano persino degli immobili veramente grandi, dove per la concorrenza scarsa o non esistente i prezzi erano assai bassi. Qui di solito ne approfittavano solo i fabbricanti estranei o l'alta borghesia di Monaco, mentre la nobiltà terriera, simile ai contadini propriamente detti, non è documentata come acquirente grazie al sistema feudale o per la mancanza di denaro contante. La scelta del luogo della asta e il fatto che il capitale extraregionale e soprattutto cittadino partecipava solo raramente all'asta ha impedito completamente il formarsi di mediatori e di associazioni di vendita in Baviera. Questo però non esclude la possibilità di acquisti per motivi di speculazione. Anche qui un giudizio conclusivo può essere dato solo dopo l'esame della fase della rivendite, per cui però fino adesso esiste solo pochissimo materiale. Verso la metà del secolo erano spesso l'aristocrazia, attraverso l'abolizione del regime feudale, essa era giunta a denaro contante che preferiva ed anche doveva reinvestire in proprietà terriere, e la Chiesa, che ne faceva nuovi stabilimenti per gli ordini, ad approfittarne. Di fronte a questo, la proprietà borghese rimaneva sorprendentemente immobile se non era andata nelle mani di agricoltori, dove in singoli casi il possesso si manteneva fino al presente in mano della stessa famiglia a causa della successione. Con questo diventa evidente che ambedue le fasi di vendita, In Baviera si sono svolte diversamente di quella alla riva sinistra del Reno, a loro bilancio. Infine si impone la domanda riguardante i vincitori e i perditori della secolarizzazione. Il punto più facile sarà la risposta ai guadagni fiscali. Indipendentemente dal fatto se si vendeva o no, ogni Stato che secolarizzava dei beni ecclesiastici acquistava delle notevoli entrate supplementari a causa dell'enorme incremento di proprietà diretta con i relativi tributi, titoli feudali, eccetera. Dappertutto dove successivamente si rivendeva, e questo, come si è detto, era il caso oltre che nella Renania e in Baviera, anche in Prussia, Berg-Westfalia, Assia-Nassau e ancora in altri paesi, la cassa statale riceveva denari supplementari. Solo nel dipartimento della Ruhr erano circa 30 milioni franchi fino al 1813. Nel periodo prussiano lo Stato vendeva e affittava per altri 20 a 25 milioni. La Baviera ha venduto per quasi 12 milioni florini, la Prussia nelle sue regioni all'est dell'Elba fino al 1813, dal punto di vista di calcolo, per 8 milioni taleri o taleri, ma il 90% però veniva pagato in buoni del tesoro senza valore. Al contrario di un'opinione largamente diffusa, la proprietà fondiaria ecclesiastica di solito non veniva venduta a prezzi troppo bassi. Nella Renania i prezzi sono rimasti stabili fino al 1813. Anche in Baviera e a Nassau si vendeva con esattezza. Essi però non potevano evitare una tendenza verso il ribasso. Solo la Prussia, più volte minacciata dalla bancarotta statale, l'ultima volta nel 1818, dal 1810 in poi ha svenduto il possesso dei capitoli protestanti. Dopo il 1815 anche i beni demaniali nella provincia del Reno e ha favorito le speculazioni. Così nel 1818 i bancari di Colonia, Schaffhausen e Herstadt hanno fatto con 2,28 milioni franchi probabilmente il più grande acquisto a titolo personale di tutto il periodo della secolarizzazione. Però proprio questo affare non sembra che sia valuta la pena a causa dei prezzi per il terreno che poco dopo si abbassavano. Il quadro risulta più differenziato nel momento in cui si considera la parte degli acquirenti. In linea di massima si può dire innanzitutto che i compratori di poderi interi sono arrivati al loro possesso a relativamente buon prezzo, se si vuole compararli con gli acquirenti di piccole parcelle. Questo si dimostra soprattutto nell'esempio della Baviera. Le diverse qualità di terreno di fronte a questo fatto non dovrebbero avere tanta importanza, benché certamente si è tenuto conto di ciò. È anche sicuro che gli acquirenti entrati in azione solo nella seconda fase hanno dovuto sborsare più denaro. Il fatto che ne sono stati colpiti soprattutto le classi finanziariamente deboli sottolinea ancora questa differenziazione. Vista la situazione delle fonti, è difficile rispondere alla domanda se gli acquisti, negli occhi della popolazione, valevano la pena o no. Il culto per Napoleone, sorgendo dopo il 1815 nel Palatinato, in cerchi contadineschi, come anche per esempio l'affermazione pronunciata da Rebmann, un ex giacobino, rendono evidente una risposta certamente positiva. È invece sicuro il fatto che i vignaioli sulle rive della Sar, della Mosella e del Reno hanno avuto dei profitti dopo la nazione alla Prussia, nonostante gli alti prezzi delle parcelle, fino all'unione doganale tra la Prussia e l'Assia nel 1828. Ugualmente sicuro è il fatto che in Baviera si deve dare piuttosto una risposta negativa. Qui la secolarizzazione non ha creato nuovi poderi, ha però eliminato fonti di guadagno in campagna e, cosa che spesso si dimentica, sovventori. Le prove per una crescente povertà di massa nelle regioni dei monasteri soppressi sono numerevoli. Certo che gli stati, come successori universali delle istituzioni secolarizzate, si sono incaricati nuovi pesi, come in molti casi, soprattutto l'onere di costruzioni ecclesiastiche e la paga del clero, come anche la dotazione delle diocesi. Anche le istituzioni di educazione e di assistenza pubblica venivano da allora in poi ampiamente finanziate dallo Stato. Questo onere poteva essere talmente grande che il relativo usufruttario, come l'ordine teutonico, preferiva rinunciare ad una secolarizzazione. La città libera di Augusta era meno cauta nel calcolare e solo dopo la soppressione si è accorta che il salto era risultato a sfavore di essa. Così si arriva a dei disordini a causa dell'aumento delle tasse necessario e alla richiesta del partito riformista borghese per l'annessione alla Baviera. Nello stesso momento, qui si rivela anche la misura dello scravio della Chiesa. Le Chiese stesse però hanno sempre definito questi pagamenti insufficienti e richiesto una dotazione fissa di proprietà fondiaria. Ecco perché, da punti di vista finanziari, esse si considerano i grandi patitori della secolarizzazione e del resto anche le Chiese protestanti. Bisogna però richiamare l'attenzione al fatto che nella Renania sia la Chiesa sia l'aristocrazia hanno perso di più dei loro patrimoni attraverso la soppressione del feudalesimo che non attraverso la secolarizzazione, e cioè dai 2/3 il convento di San Paolina a Treveri ai 3/4 per esempio il capitolo del Duomo di Colonia. Una delle conseguenze poco note della secolarizzazione è quella dello straordinario miglioramento della cura d'anime dopo il 1803, non solo a causa dell'introduzione del concorso a parroco, quale controllo di qualità, ma anche per il fatto che i governi esponevano un numero più alto possibile di ex religiosi in parrocchie per riflessioni finanziarie. Perlomeno in Baviera e nel Württemberg questo ha portato alla situazione grottesca che nel 1805 il giovane clero secolare ha protestato dai sovrani del paese contro il torto nell'occupazione di posti. Nel 1808 una statistica nel Württemberg documentava che per i 400.000 cattolici era previsto lo stesso numero di preti come per la doppia quantità di protestanti. L'episcopato di Ratisbona non sarà stato l'unico in cui il numero dei preti verso il 1810 era il più alto da tanto tempo. Involutamente si è così dimostrata la critica spregiudicata della vita monasteriale inutile. Il numero delle ordinazioni sacerdotali però si è abbassato catastroficamente. Nell'episcopato di Augusta nel 1811 c'erano solo 8 candidati ad iniziare lo studio di teologia. Ma solo nel 1828, quando era il turno di una nata che aveva vissuto quasi incoscientemente la secolarizzazione, che però nello stesso momento aveva partecipato ai nuovi progressi della Chiesa, allora il numero dei consacrati aumentava di nuovo. Una conseguenza del Reichsdeputationshauptschluss era anche la parità prescritta dalla legge dell'impero delle 3 confessioni riconosciute. Così non solo in regioni chiuse una volta dal punto di vista confessionale si formavano delle parrocchie di altre confessioni, ma anche i sovrani del paese si facevano le loro proprie chiese. Nel Württemberg, per esempio, queste sono riconoscibili alla loro costruzione solida e semplice dal cosiddetto Finanzkammerstil, diciamo stile della Camera dei Conti. L'aristocrazia cattolica dell'impero ha perso molto durante la secolarizzazione, perdendo con la soppressione di 720 posti per canonici una istituzione di previdenza preferita. Come tutti gli altri, adesso dipendeva così anche essa dal principio di carriera ecclesiastica. La soppressione del sistema feudale nella Chiesa, proprio la fine della Chiesa dell'Impero, nei cerchi dei cattolici riformisti non veniva poi tanto deplorata, Poiché nel Settecento il clero aristocratico non si è fatto notare né per la formazione teologica né per la vita religiosa. In questo quadro sta la notizia che tra il 1803 e 1816 in Germania non c'era neanche un nobile che abbia fatto domanda di un impiego in parrocchie, di una cattedra di professore di teologia e in simili istituzioni. L'aristocrazia protestante viene nominata solo per ragioni di completezza. Nel Württemberg, nella Franconia e nelle regioni della Bassa Sassonia, le case di ricovero per signore nobili e il monastero di Locum hanno sopravvissuto la secolarizzazione. Il Reichsdeputationshauptschluss ha invece soppresso l'episcopato protestante di Lubecca, l'episcopato paritetico di Osnabrück. Da tutti i capitoli del Duomo della Germania del Nord rimanevano, piuttosto per caso, solo Hildesheim e Brandeburgo. Essi hanno però perso la loro autonomia di diritto corporativo e venivano trasformati in istituti di onore regale come ricompensa per meriti per lo Stato. Conseguenza a lungo termine. Le conseguenze a lungo termine del rivolgimento dal 1800 e seguenti possono essere qui solo accennate. È vero che il trasformamento interno della Chiesa tocchi direttamente la storia sociale, però per adesso questi rapporti non sono stati esaminati quasi mai. Il formarsi di un'anticipazione di partiti cattolici è certamente una conseguenza tanto della caduta della Chiesa e dell'Impero quanto del primo costituzionalismo nascente. Ponendo la maggior parte dei sudditi direttamente sotto l'autorità dei nuovi governi, si consolidava, anche senza la soppressione formale della Costituzione degli Stati Generali, la posizione del potere centrale. Solo attraverso la secolarizzazione, per esempio, circa il 70% di tutti i contadini bavaresi diventavano sudditi direttamente sotto l'autorità statale, mentre una volta era solo il 44%. Non è necessaria un'ulteriore motivazione che questo ha fondamentalmente sollecitato le seguenti riforme politiche ed amministrative. Terzo, la cosiddetta liberazione dei contadini, cioè l'abolizione del sistema feudale, sta solo in un rapporto molto lontano con la secolarizzazione. Sulla riva sinistra del Reno, già la proclamazione del commissario generale Rudler del 1797 aveva abolito il sistema signorile terriero. È vero che in Baviera, ancora nel 1803, veniva promulgato un decreto in rapporto alle vendite dei beni che rendeva possibile la liberazione dei fondi. Però la somma richiesta era troppo alta da generare degli effetti. Il fatto che la secolarizzazione abbia ritardato l'industrializzazione con la sua offerta di terreno, per quanto riguardi la Francia, è già stato respinto da Bergeron. Anche per la Renania si può dire che gli ampi acquisti di terreno da parte di cittadini finanziariamente solidi, soprattutto da fabbricanti, siano piuttosto un fenomeno concomitante della rivoluzione industriale che si stava già rallentando, però non erano la causa. Dopo il 1820 vi si aggiungeva come motiva il regolamento d'accesso per le diete provinciali prussiane che concedevano solo ai proprietari terrieri il diritto di voto. In Baviera la continuità del sistema feudale ha mantenuto l'essere vincolato istituzionalmente del fitto assai alto e ha così evitato una più ampia liberazione di capitale che avrebbe provocato probabilmente un mutamento della struttura economica. Tirando la somma di ciò che è stato detto, risulta che attraverso le vendite di terreno nel corso della secolarizzazione l'economia non ha avuto molti impulsi positivi. In Baviera vi è persino stata una chiara demodernizzazione, poiché molti centri inferiori con una struttura economica e sociale assai differenziata sono stati le vittime di una forzata riconversione all'agricoltura. L'aumento della popolazione cominciando in questi decenni, ha ancora acuita la situazione difficile di tutti coloro che erano scapitati negli acquisti di terreni, e questo valeva per la maggioranza. Sia nella prima che nella seconda fase delle vendite, solo colui che era liquido poteva acquistare del terreno. Questo di solito non era valido per i bisognosi di terra, i poveri contadini cioè, mentre la borghesia sapeva sfruttare, in una prima fase almeno, questa occasione. Sembra che la secolarizzazione abbia ancora acutizzato le differenze esistenti tra poveri e ricchi, ma nel complesso i mutamenti delle strutture sono minime, cosa che di fronte alla quantità dei terreni venduti non sorprende. Grazie.